stanno a frescoccare alle ore 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e su www.ondarossa.info. Prova tecnica di trasmissione nel suo ultimo appuntamento di questa stagione 2020-2021 per andare a riprendere ad inizio settembre. Spazio improntato sull'industrial, l'ambient, il noise e la sperimentazione in genere, che andrà avanti sino alle 22.30 per lasciare posto a 25 o'clock. Ricordo anche la nostra campagna di abbonamento tramite crowdfunding. Sul sito della radio c'è un banner specifico. Andandoci dentro si possono scoprire le varie modalità di adesione, 30 euro per 1000 ascoltatori. Il tutto andrà avanti fino al 30 settembre. Un rapido giro di saluti. Cecilia Miradoli del progetto Pindar, ottimo progetto tra rock evoluto e trip hop, attualmente in Spagna ma che ci sta ascoltando. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Jean-Claude Berthaud in Qual della Val d'Aosta, Dario Arrighi di Progetto Non M al pari di Sara Capò Fontana. Scusate la breve pausa, ma ho dovuto aprire la porta. Andiamo avanti con Antichrist di Omicidio, progetto industrial di Firenze, Death De Carlo from Boston, per quanto riguarda Violet Knox. Marco Milanesio di Esordine, Nicola Locci di Stigmate ed Hexagonal, realtà industrial della Sardegna. Alberto Clipper di MDMA, Lucia Cagliazza di Lupsi, Laura da Frosinone, Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, Alessandra qui a Roma. E poi Isetual in quel di Milano, Fulvio Biondo di Solar Lodge. Don't forget your keys. Your parking brake is on. Rosa La Vita, progetto omonimo dall'Emilia Romagna. Francesco Cornello a Bergamo, Mariano Virdia in quel di Berlino. E anche Marco qui a Roma. Quindi iniziamo dopo questa lunga serie di saluti e lo facciamo con l'ennesimo passaggio per quanto riguarda una vecchia conoscenza della scena musicale degli anni 90 in ambito trance. Allora si chiamava Xing Wheel, proveniva dal Canada, anche se poi incideva tramite la Nova Zembla, etichetta del Belgio. Lui adesso si chiama John Sellekers con il suo vero nome, si è trasferito anche lui in Belgio a Bruxelles, ma lavora attraverso la Glacial Movements, interessantissima realtà romana. I suoni sono molto cambiati e sono approdati a una sorta di space ambient alquanto dilatato e glaciale. E la prova tangibile lo è questo album dal nome Observer Effect. Ci ascoltiamo due passaggi di questo lavoro. Esattamente Shelter e poi la settima traccia dal nome Parasomnia. Sentite come sale lentamente questo Observer Effect, ultimo lavoro per quanto riguarda John Sellecars, in questa sua nuova dimensione ambient, dilatata, glaciale, come molta produzione, e già si evince dal nome, Glacial Movements, questa etichetta romana molto molto interessante che annovera tra le proprie file talenti di ogni dove, compreso il canadese John Sellecars, come ho già detto. Un glorioso passato in ambito trance attraverso Xingu Hill. Saluto comunque anche Like Awake qui di Roma, un grosso progetto anche lui in ambito ambient, Wurnus Island, Davide Ciullini, Nicola Locci, eccolo qua, Stigmate Hexagonal. Salutiamo anche Enrico Ponzoni di Soconsci Buzzo Project, altra grossa realtà della sperimentazione nostrana. Alessio Bargiacchi qui a Roma. Observer Effect che andiamo a lasciare per arrivare qui in Italia, e d'altronde questa sera, come da un po' di tempo accade, la maggior parte delle mie, diciamo, proposte proverranno qui dall'Italia. Cominciamo con Memory of Shu di Sara Cappai, a proposito di Sardegna, la Sardegna che ci piace. Saluto anche Oders Massimo Mascheroni. Memory of Shu, dunque, è tornato con questo Life at the Seaside, anche questo abbastanza dilatato ma più vicino però alle tematiche elettroniche, per esempio della Warp Music, già che si possono anche apprezzare delle tracce IDM. Speriamo poi un lavoro sulla lunga distanza, già che questo è un EP di 4 brani, e questa sera ci aspettiamo il secondo dal nome Wind, Boats and Youth, e il quarto Baci e Capitani. Vado a risalutare Alessandra sulle note di Memory of Shu da questo Life at the Seaside. Onda Rossa, prova tecniche di trasmissione 87.9. Arrivava Life at the Seaside per Memory of Shu, progetto proveniente dalla Sardegna. Probabilmente nato dalle ceneri di Diverting Duo con Sara Cappai e Gianmarco Cireddu. Una delle cose più interessanti provenienti proprio da quella splendida regione, oltre al già menzionato Nicola Locci e le sue due ragioni sociali. Qui siamo nel pieno della deriva ambient IDM di scuola Warp. A tratti mi ha ricordato anche i Boards of Canada, giusto per fare un esempio magari più noto. E vi informo pure che questo lavoro si può scaricare in free download dal profilo Bandcamp di Memory of Shu. Arriviamo qui a Roma, ma torniamo indietro nel tempo di molti anni per andarci ad ascoltare dopo un po' di tempo dall'ultimo lavoro uscito recentemente, i Solar Lodge di Fulvio Biondo, che vado a salutare. Mi ero infatti ripromesso di andare a scartabellare e a risentire dei vecchi lavori di questo artista romano, un tempo in compagnia di Enrico Angarano. E nel 99 usciva questo Spells of Challenge attraverso la compagnia Nuove Indie. Anche qui ci sono delle astrattezze e dei profili sperimentali alquanto interessanti e accattivanti che andremo subito ad apprezzare, per esempio con la prima traccia dal nome Bactra. Thank you. بعد ان شاء الله نحضر في برنامج ان شاء الله معناها ما تخونيش بالظروف كانت مشاركه يعني حلوه مشروع بعد النشاط في شهر رمضان بعد شهر رمضان قاعدة ان شاء الله نحضر في برنامج ان شاء الله معناها ما تخونيش بالظروف كانت مشاركه يعني حلوه مشروع بعد النشاط في شهر رمضان قاعدة ان شاء الله نحضر في برنامج ان شاء الله معناها ما تخونيش بالظروف كانت مشاركه يعني حلوه مشروع E dopo un po' di tempo è stato veramente interessante e bello riapprezzare la genialità dei Solar Lodge, progetto storico romano per quanto riguarda la sperimentazione italiana. Fulvio Biondo, a lungo in compagnia anche di Enrico Angarano. E questo era Spells of Challenge del 1999. Solar Lodge probabilmente ispirato dall'omonimo brano dei Coil. E ritengo anche che ci siano dei suoni che si possono ricondurre a quella meravigliosa esperienza che piace a tutti noi di prove tecniche di trasmissione. . 21:36, questa è appunto prove tecniche di trasmissione sino alle 22:30, allorché poi ci sarà 25 o'clock. Adesso un bel saltone geograficamente parlando. Ce ne andiamo in Cina. E quindi i più affezionati sanno che è il momento di andarci ad ascoltare delle tracce estratte da Anthology of Experimental Music from China, Chinese Music Survey. Naturalmente il compendio dedicato alla scena cinese attraverso la Next Played Sound Group di Raffaele Pezzella, vero e proprio ricercatore di musiche altre, di altri continenti e culture. E la Cina, devo dire, ci ha riservato dei talenti veramente interessanti e nascostissimi. Questa sera è il turno di Ying Shui Jiang. La traccia è scritta in ideogramma cinese, quindi non riesco ovviamente a leggerla. E poi ci sarà Hua Lun con City Blues. Thank you. Andiamo avanti sempre dalla medesima compilation, un altro artista dal nome Walloon, questo è City Blues, sempre da Anthology of Experimental Music from China. Thank you. anche per questa sera due passaggi molto molto interessanti da questa Anthology of Experimental Music from China ad appannaggio di Raffaele Pezzella, vero e proprio factotum e agitatore culturale. Due estratti dunque per Ying Shui Jiang e Walun. City Blues, che di blues aveva veramente poco, ma comunque la traccia aveva un certo valore, come lo sono tutte le altre 16 in tutto che sono ospitate da questo compendio uscito nel giugno, credo, del 2021. Stavo anche vedendo che il buon Raffaele Pezzella, non contento di averci già tre label, ne ha acquisita un'altra, la Reverse Ligament, che è anche lei in un progetto Bandcamp e con la quale ha già stampato un lavoro che presto ascolteremo a settembre, ma ne parleremo appunto più avanti. Andiamo avanti, scusate il gioco di parole, lo facciamo con due artisti italiani. Uno l'ho salutato prima, Alberto Clipper di MDMA, e l'altro è Enrico Cerrato di Petrolio. Insieme hanno stampato un album molto molto interessante da nome Back on Earth Jesus, tra suggestioni elettroniche, doom e industrial. Una fattiva collaborazione che questa sera, per esempio, apprezzeremo attraverso una traccia dal nome Teaching in Noise.